Ci siamo ragazzi. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Cross interessante, Higuaín! Facile. Il pareggio del Napoli. Concentra El Pipita. Higuaín! Napoli 2, Dinamo 1. Mertens. Ma di fronte Kozlov. Higuaín! E sono 3. Palla raccolta, recuperata da Salah, dall'altra parte, attenzione al movimento di Ilicic, Salah cerca, trova Ilicic, il destro! 1-0 Viola, la cambia lui, l'uomo più atteso, più discusso, ma ancora una volta, grande merito di Salah. Parte Florenzi, palla in mezzo, la deviazione e il pareggio di Keita, 1-1, solissimo, troppo solo e perfetto nello stacco di te. Dentro, occhio a Palacio, col destro, eccolo qua, il gol del vantaggio, il Trenza porta sopra l'Inter 1-0 al sesto minuto, occhio ad Osta, palla nel traffico, il colpo di testa, e c'è il pareggio di Naldo, specialista su palle aeree, il brasiliano trova il gol dell'1-1, Juan Jesus, eccolo Vidic. Occhio qua, grave errore, prova a recuperare. Vierigna, poi lo scarico, il destro. E il gol di De Bruyne. 2-1 Wolfsburg. Ma che frittata di Carriso. Ma De Bruyne prova col destro. E il gol del 3-1. 75esimo. 3-1 Wolfsburg. Non benissimo. Qua Pablo Carriso. Malissimo direi. Aspetta Molinaro, rischia il tackle, poi Smolnikov, la botta, attenzione Witzel, la mette dentro, era a due passi Witzel, da lì non può sbagliare Rondon, l'elastico, poi col mancino in mezzo, Gazzi protegge il pallone, il duello con Criscito, poi Farnerud, Denny, Hulk, ancora per Denny, di nuovo Hulk, palo, Criscito, la mette dentro e adesso il Toro soffre troppo ed è sotto 2-0. Così è andata ieri sera, nella notte che era la notte dei desideri e che rischia di trasformarsi nella notte dei rimpianti. Parte il Napoli, che chissà perché, carissimo Pier, ciao. Ciao. Chissà perché è stato messo in cima alla nostra copertina. Tu hai qualche idea? No. Scusa, ma c'era un tassista di Firenze, mi ha chiesto una cosa, che cosa è stato messo in... No, chissà perché è stato messo il Napoli in cima alla copertina. Da qui dei nostri autori, dei nostri, come dicono a Napoli, sì. Dobbiamo consolarci, è stata l'unica vittoria di un'italiana ieri sera e era anche la partita oggettivamente più facile, nel senso la partita nella quale la favorita era il Napoli, e il 3-1 va anche detto è un risultato molto buono, ma che non mette completamente al riparo, quindi ci vorrà una partita comunque intensa, sì. anche al ritorno, anche, però, anche insomma, il Napoli ha la sua fetta di rimpianto. Anche il Napoli ha smesso di rimpianto, perché all'Inter, perché se l'Europa League, facile parlare dopo, per carità, se l'Europa League è la porta principale di accesso al sogno Champions, e allora però deve giocare il portiere titolare. Sai cosa facciamo, Pier? Siccome io sono d'accordo con te. Tra l'altro non è solo una competizione, questa Europa League per l'Inter ci hanno raccontato che vuol dire tante cose, se mai dovesse arrivare quell'accesso alla Champions League, anche per i conti della società, i debiti, i mutui, allora noi convochiamo chiunque entro le 15:30 riesca a dirci che Mancini ha fatto bene a far giocare Carrizo. 800 24 00 24, io lo dico a Giorgio De Luca, se chiama qualcuno che dice che Mancini aveva ragione, lo mandiamo in onda. Va bene, Pier? Sì, va bene, ma posso dirti che c'è traffico. Ti dico una cosa al volo. cioè, è chiaro, è evidente, l'abbiamo sottolineato e si è visto anche ieri sera che le squadre italiane hanno cominciato ad affrontare l'Europa League da quest'anno con un focus e un'attenzione nettamente superiore rispetto al passato, e questo è evidentissimo. Bisogna però questa cosa portarla soprattutto nei casi di squadre come l'Inter e come il Torino, che hanno nella Champions League in questo punto l'unica porta d'accesso alla Champions, lontana, lontanissima, diciamo, di squadre, ma insomma per loro è la competizione principale, cioè bisogna arrivare a fare turnover in campionato se serve. E qui è chiaro che c'è un discorso di teorico, no? Che c'è il portiere delle coppe, perché all'inizio della stagione le coppe sono meno importanti del campionato. Sì, però poi, c'è anche una gerarchia di impegni, di obiettivi. Poi c'è una gerarchia. Oggi se c'è un ruolo, lo sappiamo bene, dove il turnover ha poco senso dal punto di vista fisico, è quello del portiere. Mm. Però insomma, io capisco che Carrizo si possa ritagliare un ruolo, che ci stia, no? Nella divisione ci sono mille esempi di squadre di successo che hanno un primo portiere che gioca il grosso delle partite e l'altro che gioca le partite di coppa. Ci sta, solo che a questo punto bisogna riconoscere, come dicevo un istante fa, che Wolfsburg-Inter o Inter-Wolfsburg è nettamente più importante di Inter-Cesena, ma nettamente, proprio non c'è partito. Sì, ma anche perché, io la dico come provocazione, se il Wolfsburg è la squadra più forte di questa Europa League e l'Inter ha perso in quel modo e a portieri invertiti probabilmente avrebbe vinto in Germania, Pierre, io credo che quella di ieri sera debba diventare davvero la notte dei rimpianti per l'Inter, per Mancini e per tutto quello che potrebbe significare. Tutti convocati. Eccolo qui, l'abbiamo trovato il primo, Pier. Io sono d'accordo al 1000 per 1000 con Mancini, Carrizo tutta la vita, firmato Sergio, aperta parentesi milanista. Ah, certo. Certo. 349-238-6666. No, li convochiamo anche via SMS. Oltre... Questo non vale. Non no, vale, vale. È il primo. 800-24-0024. No, volevo dirti, ti faccio sentire due voci da Fiorentina a Roma. Perché non lo so, secondo me, secondo Giorgio De Luca, si apre un fronte dialettico all'interno della Roma. Te lo faccio sentire. La differenza è che se noi giochiamo in 11 e diamo tutti quanti il massimo, possiamo giocare da Roma. Se uno non è in giornata o due non sono in giornata, non possiamo giocare da Roma. No, no, per niente. Giochiamo sempre in 11. La cosa che ci aiuta è quando giochiamo con 11 giocatori che sono al loro livello, forse anche al massimo del loro livello, come è stata almeno nel secondo tempo oggi, ma non c'è niente fatto, siamo solo all'intervallo e questo gol è importante, ma l'obiettivo non sarà solo qualificarsi sulla gara del ritorno, ma anche vincere la partita. Con chi ce l'aveva Nainggolan, Pierre? Con De Rossi? Forse era un discorso in generale, sì. o forse no. Se non lo era, chiaro, i destinatari possono essere De Rossi, c'è anche qualcuno che dietro logicamente ha pensato a Totti ieri non era presente. Il ragionamento non fa una piega, la Roma di questo periodo non può permettersi di giocare con due o tre giocatori che proprio sono sotto il livello minimo della prestazione. Prendersela con De Rossi di ieri è fin troppo facile, nel senso che insomma in quei 20 minuti ha combinato l'errore che ha portato al gol della Fiorentina, quindi forse ce l'aveva con Garcia. Abbiamo letto tanti in queste settimane sul fatto che Garcia stia perdendo un po' il polso dello spogliatoio, che lo vede anche insistere sui senatori, su Totti che gioca 4-5 partite di fila. Forse il messaggio non è tanto per De Rossi, non è per Totti, è per chi deve governare lo spogliatoio. Sì, il messaggio è per chi deve guardare lo spogliatoio sicuramente. Nainggolan aveva già fatto delle dichiarazioni un paio di mesi fa, diciamo un po' più generiche, ma insomma sull'agonismo, sul livello di tensione che deve essere sempre ottimale, che deve essere sempre massimo. Questo non ci sono grandi dubbi. Io non scarto neanche l'ipotesi, è un discorso abbastanza generale. Però insomma è un segnale che qualcosa probabilmente si è rotto. Sappiamo che a Roma ci sono di situazioni che sono situazioni sentimentalmente che un po' incidono, no? Ma ha fatto notizia quando nel famoso derby del 2010 con la Roma sotto 1-0 sono usciti De Rossi alla fine del primo tempo, la Roma ha vinto la partita. Io non penso che l'abbia vinta, perché stiamo parlando di due colonne, soprattutto Totti, della storia della Roma, quindi non è in discussione questo. è in discussione il fatto che magari in certi momenti tutto ciò che riguarda loro, soprattutto che riguarda Totti, fa sempre comunque notizia. Anche una sostituzione certe volte fa notizia, anche una panchina fa notizia, che è un credito che Totti si è guadagnato clamorosamente sul campo, e anche De Rossi in certi momenti della sua carriera, anche se sicuramente questa non è una stagione brillante. No, poi in certi momenti può essere anche limitativo continuare a rimanere così legati con queste icone, ma con questi grandi giocatori. Sempre, ma da qualsiasi parte del mondo è limitativo, perché sappiamo che l'affetto, che è un sentimento nobilissimo, delle volte può portare anche a essere un pochino meno razionali, un pochino meno logici, anche se poi io mi ricorderò sempre in una scena dopo la finale di Champions League vinta col Milan, con Carlo Ancelotti, che su una prestazione non brillantissima di quel monumento assoluto del calcio mondiale che è Paolo Maldini, lui mi disse: chi è che lo tiene fuori tu? Dicendo una chi cosa glielo dice? Dicendo una... chi glielo dice? No, ma non è debolezza, figurati se Ancelotti non aveva la forza di... è un fatto di ruoli, è un fatto di personalità, è un fatto di aiuto che certi giocatori danno alla squadra in certi momenti, per cui il discorso è sempre molto relativo. Sì, però in questo momento mi sembra che il discorso di Nainggolan invece sia poco relativo e molto concreto, cioè questa Roma ha bisogno di giocare in 11, evidentemente nelle ultime settimane non l'ha fatto sempre. Io continuo ad aspettare quelli che difendono Mancini, 800 24 00 24. Gli sms, a parte Sergio il milanista, sta arrivando una pioggia di critiche. Saluto Evaristo Beccalossi. Ciao Evaristo. Ciao, buongiorno a tutti. Ho scoperto delle cose nuove oggi. Cioè? Che bisogna giocare in 11. Non l'avevo mai sentita. E che bisogna giocare col portiere titolare. C'è stata un'interferenza, non avevo sentito. Che bisogna giocare con il portiere titolare. Vabbè, anche lì credo che chi ha le responsabilità le valuterà, perché se parti con una linea prosegui con quella e magari puoi anche cambiare. Cioè, insomma, il valore di Handanovic non si discute, però Carrizo fino a questo momento, quando era stato impiegato, aveva fatto abbastanza bene. È normale che uno dica sì, quando si va verso una certa fase, gare importanti, bisognerebbe mettere in campo i migliori, ma credo che Roberto lo sappia questo, e dispiace, perché secondo me la situazione non è ancora chiusa, perché secondo, ti ripeto, al ritorno i due gol li puoi fare, chiaro, sì, che il problema è non prenderlo, devi fare certi errori dietro. Vi posso far sentire Mancini ieri sera su Carrizo, sul tema del portiere di riserva? No, adesso il portiere purtroppo un errore lo può fare, non è... Credo che sono altri errori che non dobbiamo commettere. Oh, capito Pier, Becca? No, ma lui protegge Carrizo benissimo, ci mancherebbe altro che dicesse sia colpa di Carrizo se lo scaricasse, soprattutto in un ruolo delicato come quello del portiere. Ma nessuno adesso deve colpevolizzare Carrizo, gli errori, ha ragione Mancini, ci stanno, è semplicemente che la gerarchia a questo punto della stagione bisogna fare quello scatto mentale da on a off di capire che la gerarchia è cambiata, per cui tu giochi con i migliori Wolfsburg-Inter e Inter-Wolfsburg e fai turnover con Cesena in campionato, perché se pareggi col Cesena in campionato è molto meno grave, molto meno importante che se vieni eliminato dal Wolfsburg. Questo è come la vedo io. Evaristo, ti è piaciuto il cambio Vidic-Hernanes o ti ha ricordato Bocchetti-Pazzini? Nel senso di mentalità, cioè ha tradito un po' se stesso anche in quel cambio. Ma sì, sono due giocatori che non stanno dando per quello che ci si aspettava, questo è un dato di fatto, però anche qua mi ricollego al discorso che facevate prima, insomma, che nel calcio di oggi o sei talmente forte che ti puoi concedere qualche pisolino con due o tre giocatori, o altrimenti devi elevare il rendimento di tutti gli 11 giocatori. E poi soprattutto è facile dopo dire questo non l'ha mai presa, impariamo ad andare a vedere perché magari uno non sta rendendo al meglio. Questo è il concetto credo degli uomini di calcio, e devi portare 11 giocatori a un livello per cercare di fare il risultato. E invece ultimamente si sente parlare, chi era, Nainggolan, che diceva sì, dobbiamo giocare in 11. È logico che il messaggio per fare il risultato, la squadra deve avere un certo rendimento su tutti gli 11 giocatori. Se trovi la giornata storta con due o tre, diventa difficile fare il risultato. Questo è il concetto. Poi vai a vedere perché non stanno rendendo al 100%. Che percentuale ha l'Inter Becca di passare settimana prossima? Tanti scrivono si può fare 2-0, il risultato si può fare. Infatti l'abbiamo analizzato. Però dai, io torno al paradosso d'inizio. Se il Wolfsburg è la squadra più forte di questa Europa League, perché è la seconda della Bundesliga, l'unica che sta in scia al Bayern Monaco, che è la corazzata che abbiamo visto, a maggior ragione l'Inter deve uscire dalla partita di ieri sera piena di rimpianti per aver compromesso la qualificazione. Io ti dico, al di là degli errori che si è fatto e tutto, sull'1-1 abbiamo avuto la palla gol di Palacio, quindi da un possibile 2-1 per noi siamo passati con l'errore a andare sotto. Però nel caso ci può stare, anche se era meglio che non succedesse. Però il ritorno sono sicuro che un paio di gol riesci a farli. Dobbiamo essere attenti, perché non devi concedere, non devi fare regali. Questo è la lettura della partita di ritorno. Il potenziale per ribaltare i due gol, secondo me, con l'apporto anche di San Siro, e ti assicuro che quando c'è l'impegno importante si fa sentire. Il problema è che dobbiamo essere attenti e cercare di fare meno errori possibile per non prendere gol, perché il potenziale per farne due, secondo me, ce l'abbiamo. Grazie Becca. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Grazie Evaristo Beccalossi. Pier, serve la partita perfetta. Serve la partita perfetta. Solo 6 volte su 22 con Mancini l'Inter non ha preso gol. Sì, sai che a me piacciono i numeri, piacciono le statistiche. La partita di ieri, in realtà, non ti dico, dal punto di vista della prestazione mi è sembrata più incerta di quello che magari pensavo, nel senso che eravamo usciti, no, con tante paure dal sorteggio, pensando che il Boston potesse veramente fare una partita pazzesca, superiore, dominare. Questo non è successo, è successo soltanto magari per alcuni momenti della partita. Era una partita che con degli episodi un po' diversi poteva finire, insomma, già potenziale 2-1 sarebbe stato molto diverso. Se è dura, per me c'è un 30% di possibilità. Sono d'accordo con Evaristo, il Wolfsburg non mi sembra impenetrabile dietro, l'Inter i gol li farà, deve fare una partita perfetta dal punto di vista difensivo, però è giocabile, non vedo l'ora che sia giovedì, tra l'altro facciamo delle cronache, vediamo. Io penso che ci siano delle possibilità e che possa essere una grande notte. Certo, serve la prestazione perfetta. È giocabile, avrebbe potuto essere qualcosa di diverso, avremmo potuto essere qui a raccontare una storia diversa. Poi ieri abbiamo visto anche le tue foto, Pier, ha fatto il giro del mondo, il Salone dei 500, Palazzo Vecchio, tutta la gallery dopo la puntata la potete trovare sul nostro sito www.radio24.it. Cercate, ci sono tutte le foto di Pierluigi Pardo. No, ma a parte le foto mie, ma la cosa anche proprio un calcolo numerico, ieri sono stati 487 biglietti omaggio staccati, più ce ne sono stati credo un altro centinaio almeno di persone che non hanno ricevuto il biglietto del museo, quindi non sono state contate, ma che si sono semplicemente presentate col biglietto e sono state fatte entrare. Quindi vuol dire che una persona su 40 di quelli che erano allo stadio ieri è andata a vedere i musei, e mi sembra una cosa bellissima, una percentuale abbastanza significativa, con tantissimi romanisti ma anche con parecchi fiorentini. Io ho fatto una passeggiata che non dimenticherò, nel senso che veramente ho fatto questo giro tra le 6:30 di Palazzo Vecchio fin su, insomma, veramente straordinario. Salone 500, Salone 200. Noi dobbiamo ripeterlo, che poi settimana prossima si replica a città e musei invertiti, tocca a Roma, quindi amici che andrete a vedere Roma-Fiorentina, musei cittadini aperti gratis se avete il biglietto della partita. Pier, stai lì, 800 24 00 24, credo ci siano i primi due difensori di Mancini, se non sbaglio, Giorgio Giancarlo da Milano. Prima però c'è la borsa. Peccato, però adesso c'è ritorno, adesso concentrati, abbiamo fatto un gol qui che al ritorno lo dobbiamo far pesare. Peccato, però abbiamo ancora 90 minuti per qualificarci. Tutti convocati. Li avevamo chiamati ed eccoli qui, 800 24 00 24, i difensori di Mancini. Giorgio da Milano, Giorgio. Buongiorno, grazie. Eccoci. Prego. Dunque, io difendo Mancini al di là del risultato di ieri, perché bene o male è riuscito a dare un gioco alla squadra che perlomeno fa piacere giocare a calcio, non come prima quando c'era Mazzarri che si vedeva tutt'altro che il calcio. Secondo, Carlizzo o Handanovic non sono loro che determinano il risultato. Il risultato, secondo me, lo determina Palacio, perché i tempi che ha avuto per calciare quella palla in porta e lui la quella sull'1-1. Sì. Lui come minimo ha 3 secondi libero davanti al portiere. Sì, ma anche quello è un errore, Giorgio. Però se tu avessi giocato con un portiere, magari dei 3 gol ne prendevi solo uno. C'è la controprova. No, non c'è, per carità, però, no. Allora, però è anche difficile sostenere il contrario, cioè che Carrizzo non abbia indirizzato comunque il risultato della partita. Sì, non l'ha indirizzato, perché volendo, se un calciatore di Serie A con quei tempi, peggio che un rigore, mi calcia la palla fuori, che può andare sul 2-1 e cambia tutto, vede che Carrizzo contava fino a... Quindi colpa di Palacio. Sentiamo Giancarlo da Milano. Giancarlo. Buongiorno a tutti e grazie per la convocazione. Ma molto brevemente, per quanto riguarda il portiere, Handanovic domenica scorsa ci ha fatto prodotto la Fiorentina, quindi anch'io sono d'accordo con l'ascoltatore precedente. È chiaro che siamo tutti bravi a vedere dopo la partita, vabbè, giocava Handanovic. Faccio presente una cosa da interista, se voi notate sia il primo che il secondo gol, Juan Jesus non c'era. Cioè, stiamo parlando comunque di una squadra che 2 anni che ha nelle figure dei giocatori centrali, era stato acquistato Vidic per mettere un pochino una toppa, ma siamo punto a capo, dove siamo ormai a un livello imbarazzante. Io, se posso fare una punta Mancini, non capisco un allenatore bravo come lui come si ostina a far giocare Juan Jesus, anche se non ci sono alternative. È lo stesso Ranocchia. L'Inter ormai è 2 anni che ogni partita, Pardo lo sa perché ne ha viste parecchie, le commenta, crea per gli avversari almeno 2 o 3 palle clamorose per gli avversari, ma con errori proprio individuali. E quindi sì, però io scusate, io per carità, i problemi della fase difensiva dell'Inter ci sono, li analizziamo e va bene anche analizzarli su ieri. Dire però, Pier, come ha fatto il nostro amico prima, noi accettiamo tutti i difensori di Mancini e Carrizzo oggi, 800 24 00 24, voi chiamate e prenotatevi, perché alla fine facciamo il conto e lo pubblichiamo su Twitter. Ma non deve essere una battaglia personal contro il povero Carrizzo. Anche Andanovic ha ragione, l'ascoltatore fa qualche errore, degli errori ci mancherebbe, però come si faccia a dire che ieri Carrizzo non ha inciso, io non lo so. Fare turnover dei portieri in una competizione che è diventata così importante, secondo me è un'imprudenza. Poi Carrizzo magari giocherà col Wolfsburg e farà 4 miracoli, ci sta. Io faccio un punto di principio, cioè, secondo me è arrivato un momento in cui la gerarchia degli appuntamenti stagionali è cambiata, cioè l'Europa League è più importante del campionato per l'Inter, secondo me, perché al massimo l'Inter può arrivare in Europa League se fa un buon finale di stagione. A meno di miracoli non ci arriva in Champions attraverso il campionato, dai, mi sembra veramente improbabile. Come fa? Quindi, per quanto riguarda il discorso della fase di partita dell'Inter, ha ragione l'ascoltatore. Sì, c'è anche chi dice Pier, il vero asino è Vidic che sbaglia sul secondo e sul terzo gol. Per carità, Vidic fa degli errori, ma sul terzo gol Carrizzo si mette dietro la barriera, giusto? Ripeto, però secondo me il punto è generale, sennò diventa piccione a Carrizzo. Non è questo il punto. Il punto è che devi giocare col portiere titolare, secondo me è una partita così importante. Poi sbagli Handanovic, come può succedere, lo accetti, perché Handanovic ha sbagliato e può sbagliare anche lui, per carità. E sul discorso della fase difensiva sono d'accordo, infatti io penso che il problema di Inter Wolfsburg non sia, come diceva giustamente Laristo, fare i 2 gol, come l'Inter può fare, ma è riuscire a fare il clean sheet, cioè a non subirne. Sì, a non prendere meno uno. Ti dico che se l'Inter non subisce gol col Wolfsburg, insomma, passa al turno. Luigi D'Ancona. Ciao ragazzi, ciao Pardo, ciao Genta. Eccoci qui. Genta è a casa, comunque fa niente. Prego Luigi. È troppo facile secondo me parlare a posteriori, perché si sapeva che avrebbe giocato Carrizo come ha fatto Casillas nel Real Madrid in Coppa Campioni, e l'andamento generale di Handanovic quest'anno, prestazioni veramente negative tutte le partite. Ogni volta che guardavo le partite, io sono ritornato a vedere le partite dopo che è tornato il grande Mancini, grande amico, grande iesino, grande marchigiano. Caro Pardo, quando viene a Filottrano dai nostri amici comuni la invito a bere qualcosa di buono, quindi se li avverta e che mi avvertiranno, ci andiamo a fare una bevuta. Però detto questo, avvertiteci, i non sbagliano mai, siamo arrivati a questo punto. No, però Handanovic quest'anno ha giocato veramente male, uscite pessime, palle basse, non ne prendeva una, e si sapeva che Carrizo avrebbe giocato in Europa League. Non è diventato il secondo portiere dell'Inter, dai, no. Qualche errore l'ha fatto, ma è il primo portiere dell'Inter ed è anche una delle non molte pedine possibili di mercato che l'Inter ha a disposizione in questo momento, un portiere che ha grandi stimatori. Insomma, dai, secondo me non c'è partita. Poi ripeto, il portiere, come qualsiasi altro ruolo, può sbagliare pure quello più bravo. Quindi Handanovic ha sbagliato qualche volta e poteva sbagliare ieri al posto di Carrizo. Però la prima scelta è lui. Quindi secondo tra me. Tra l'altro, io mi chiedo: il ritorno è una partita che potrebbe finire supplementare ai rigori. Handanovic è forse il miglior pararigori del mondo. L'Inter cosa fa? Lo tiene fuori per turnover, Pierre? Beh, al limite fa il cambio verso la fine. Beh, come, insomma, come siamo a una costruzione mentale. Ma no, per non dire altro, fammi sentire qualche voce del Napoli, perché sennò ci riprendono qui, Napoli. Diciamo che questo è un passo in avanti comunque verso la qualificazione, passo importante. Sì, passo in avanti sicuro, però dobbiamo capire che di là sarà difficile, una squadra forte, ha 3-4 giocatori che fisicamente sono forti, hanno velocità, è sicuro che ancora dobbiamo lavorare tantissimo per la qualificazione. Micaela. Sì, chiaramente subire un gol all'inizio, il reagire come ha reagito la squadra mi è piaciuto, dopo io volevo il quarto gol, loro ci hanno provato e credo che questa è la mentalità giusta. Questo il Napoli, anche il Napoli ha la sua fetta di rimpianto perché ha preso gol dopo 40 secondi, poi ha vinto 3-1, quel gol preso potrebbe contare nulla, vedremo settimana prossima Mosca, ne parliamo dopo il traffico. Convocati 800 24 00 24. Credo, Pier, che Higuain sia il giocatore più forte che circola in questa Europa League. Sì, il vero Higuain top player. È come dice il professor Sconcerti, che ha coniato la definizione, il modo di dire, la differenza, no? Lui è la differenza del Napoli ed è in questa Europa League una differenza assoluta, cioè un giocatore che fa appunto la differenza con la sua qualità. Lui non è abituato all'Europa League, il suo territorio naturale è un altro, è quello della Champions, però mi chiara tanto bene, mi sembra che dopo qualche settimana così un po' di frustrazione, un po' Bilbao, un avvio difficile in campionato, il rigore sbagliato contro il Chievo, qualche mugugno, mi sembra che sia ampiamente rimesso in pari ed è un giocatore eccezionale. Sì, credo non sia un caso, Pier, che adesso che comincia ad alzarsi l'asticella e si avvicina al traguardo, si ritrovi Higuain che torna ad essere decisivo. Questo è certamente vero. È anche vero che una figura come Rafa Benitez, se ha una ossessione sono le coppe, ha una capacità, così come qualche volta lo rimproveriamo per fatto di non sapere in qualche circostanza leggere delle squadre avversarie, che si adatta al suo gioco, di essere sempre un po' uguale a se stesso in campionato, di lasciare qualche punto, e al tempo stesso però bisogna sottolineare che Benitez dal punto di vista delle grandi partite è un allenatore speciale, grandioso, ecco, è nella categoria degli Ancelotti, è uno che ha vinto l'Europa League 2 volte in carriera, è l'unico assieme a Udo Lattek ad aver vinto coppe europee diverse con 3 club diversi, no, stiamo parlando di una garanzia assoluta. Quindi io, il Napoli, se affronta l'Europa League con il massimo del focus, con il massimo della concentrazione, dovrebbe essere così, anche se a differenza dell'Inter il Napoli ha una battaglia anche in campionato molto importante, molto rilevante, quindi già lì può diventare più complicato andando avanti, no? Perché la possibilità di arrivare alle prime 3 è fondamentale. Quindi paradossalmente l'Inter non dovrebbe avere dubbi sul turnover, il Napoli già un po' di più. Sì, credo Pier, neanche il Napoli, una squadra che nella storia ha alzato un unico trofeo internazionale, io credo non si può permettere di fare di guardare con una porta aperta. Ecco, perché bisogna anche, poi a calcio non si gioca solo per i soldi, cioè bisogna anche giocare per l'ambizione di vincere la competizione alla quale sei iscritto. Il Napoli l'anno scorso col Porto ha fatto turnover e l'ha vissuta, non dico come un fastidio, ma come veramente una grande diminuzione, dopo aver fatto benissimo col massimo della sfortuna possibile i 12 punti nel girone con l'eliminazione, no? Ricorderete. E quest'anno mi sembra che abbia affrontato la competizione fin dall'inizio con un atteggiamento diverso, poi l'abbiamo detto mille volte, nella prima fase sta anche, visto il livello delle avversarie, che uno possa fare turnover, perché se giochi con lo Slovan Bratislava va bene, va benissimo, probabilmente ti bastano le seconde linee, no? Però poi andando avanti il livello aumenta e a questo punto il gioco si fa duro e bisogna fare di tutto per poterla giocare. E io sono ottimista sul Napoli, sono ottimista perché credo che il Napoli abbia innanzitutto questo giocatore strepitoso di cui parlavamo prima e poi un allenatore che più aumenta il peso della partita secca, più diventa importante e meglio di più dà il meglio di sé, poi magari un giorno ci dirà anche che cosa fa, se sta da Napoli, se va in Inghilterra, se va a Parigi, anche se è stata la settimana sbagliata, Pier, no? per candidarsi alla guida del Paris Saint-Germain. Guido da Napoli, Marco da Rimini e Silvio da Teramo, vediamo se riusciamo a farli tutti e tre. Guido. Buonasera, senta, sull'Inter di ieri sera, sì, questa considerazione vorrei fare. Ritengo che quello che ha combinato ieri sera Mancini faccia il paio con la pioggia di Inter Verona di Mazzarri, è un errore clamoroso, una cosa veramente sconcertante, insomma. Il non impiego di Handanovic, che è vero che ho sentito che avrà fatto qualche titubanza in questo campionato, ma insomma paragonarlo a Carrizo mi sembra. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa: in una squadra come l'Inter, che è malata, una squadra che ha una difesa così malandata, non sarebbe stato il caso ieri sera di escludere un attaccante, un Palacio o quell'altro là, il Shaqiri, che e mettere un giocatore difensivo? Non lo so, Pier, cosa ne pensi? Perché allora, poi in realtà la partita è cambiata in peggio quando ha messo Vidic, sì, al posto di Hernández. Esatto. Guarda, io sulla gestione complessiva di Mancini della partita di ieri invece non sono insoddisfatto, come dicevo prima. Temevo anche peggio perché avevamo fatto giustamente le lodi del Wolfsburg, che aveva vinto bene con Bayern, insomma ieri non è stata una partita, non è stata un'umiliazione, è stata una partita che lascia degli impianti, che finisce 3-1 e che lascia degli impianti. L'Inter aveva sbloccato subito, a me non è dispiaciuto l'approccio, quindi da questo punto di vista non ho molto da rimproverare a Mancini, anzi non ho niente da rimproverare. Rimane, ma è facile dirlo dopo, questa scelta, che se decidi che l'Europa League è così importante devi curare il minimo dettaglio. Poi ripeto, l'errore lo poteva fare anche Handanovic, però se c'è una gerarchia in questo momento e questa è la tua competizione principale, gioca il portiere migliore, gioca il portiere titolare. Marco da Rimini, Marco. Sì, buonasera a tutti. Eccoci. I complimenti me li risparmio. No vabbè, anzitutto è ovvio che io sono pro Carrizo per questa ragione, perché lui poveretto non ha nessuna colpa. Tra l'altro ricordo che a Glasgow fece delle gran parate, per cui non si può dare la colpa a lui, ma la gestione totalmente inopportuna di Mancini e anche della società, perché presumo che ci sia un disegno dietro di lasciare fuori il portiere titolare nella competizione più importante. Cioè, voglio dire, uno come Carrizo si gioca la Coppa Italia, basta. Cioè non esiste, a mio parere. Sì, ma anche a costo di fare due partite in un anno. Sì, assolutamente. Più magari due o tre di passaggio in campionato. Marco, sono d'accordo. Silvio da Teramo, Silvio. Sì, salve e complimenti innanzitutto. Io volevo parlare della partita dell'Inter, ma in questo senso, considerando che sono juventino, quindi non è che mi sia strappato i capelli. Però voglio solo far notare questo, che secondo me, come anche media, siccome leggo sempre il campionato italiano è di scarso livello, non vale a niente, ieri sera c'era la seconda del campionato tedesco contro la novena del campionato italiano e secondo me l'Inter, se non faceva quelle stupidaggini, poteva. Ma è il paradosso da cui sono partito. A portieri invertiti, io credo che la partita sarebbe finita diversamente, e per questo credo che ieri sera sarà una notte che resterà tanto nella testa degli interisti per tutto quello che poteva valere. Se vogliamo fare un po' di proprietà transitiva e giocare un po', il ragionamento vale anche per il Torino, nel senso che comunque lo Zenit è una delle favoritissime di questa Europa League. Cioè, il Torino ha perso male sicuramente, però insomma è ancora in corsa e ha giocato per lungo tempo in 10 contro 11, cioè si può anche riflettere su questo. Io credo che la cosa di piangerci addosso, anche per il momento, fare time out e non farla più, insomma, no? Mi sembra che il calcio italiano sia un calcio competitivo con dei difetti sicuramente strutturali, dobbiamo lavorare per migliorarlo, ma non è sempre tutto da buttare. Quindi sono d'accordissimo con l'ascoltatore, se facciamo questa proprietà transitiva tra la seconda in Germania e la ottava, nona, non lo so, la nona del campionato di Serie A, non ne usciamo poi così male. Non ne usciamo più, no? Non ne usciamo poi così male. Insomma. Ciao Pier. Il calcio dominatore degli anni 90, ma non siamo neanche da buttare via. Ciao, no, assolutamente. A domenica. Ciao Pier. Saluto Giacomo Bagnasco. Giacomo, ti do 40 secondi per la formazione d'Italia-Francia, rugby. Buon pomeriggio a tutti. La formazione dell'Italia cambia in funzione degli infortuni recuperati da parte di Masi e Sarto, che quindi tornano in campo al posto di Bacchini e di Zentin, un infortunio patito da Favaro, per cui gioca Vunisa in terza linea. La formazione francese ha molti cambi, cambiata per 8 quindicesimi. Francia anche scossa dal dramma sportivo che è avvenuto in questa settimana, Francia che ha preso 2 mete in tutto e quindi ha un'ottima difesa, Francia che nelle ultime 2 apparizioni in Italia, nel 2011 e nel 2013, ha perso. Speriamo che non ci sia 2 senza 3. Appuntamento domenica, giusto? Stadio Olimpico domenica di Roma alle 16, e seguiteci anche sul sito del Sole 24 Ore perché c'è uno speciale 6 nazioni. Italia-Francia, ciao Giacomo. Ciao, grazie. Giacomo Bagnasco, noi invece siamo qui fino alle 15.30, 800 24 00 24. Non abbiamo ancora il numero esatto di quelli che difendono Mancini e Carrizo, siete tanti, ma vi invito ancora a chiamare. Applausi per lui, pubblicità per noi. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Rieccoci, 800 24 00 24. C'è anche chi scrive, Stefano da Roma, lo citiamo. È giusto che giochi Carrizo, anche se non sono d'accordo. Vorrei spiegarmi, ma non riesco a prendere la linea. Stefano da Roma, lo registriamo lo stesso. 800 24 00 24. Vincenzo da Salerno, Vincenzo. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete bravi. Volevo farvi una considerazione, giusto. Allora, non mi trovate d'accordo quando si parla di Mancini. Allora, se Mancini, il signor Mancini, dice che la difesa dell'Inter è naif, lui ieri è stato più naif della difesa. Lasciatemela passare. Perché, allora, la matematica non è un'opinione. No. Mancini ha la squadra più forte di quella di Mazzarri. Fate un paragone tra quello che ha fatto Mazzarri e quello che ha fatto Mancini con una squadra nettamente più forte, perché Mancini vince e vincerà solo ed esclusivamente facendosi costruire la squadra con gli uomini che lui vuole e si è fatto comprare nel mercato autunnale ma anche quello è un pregio, Vincenzo. Allora scusatemi, allora non mi dovete venire a dire se Mancini è un allenatore di caratura internazionale. Allora scusatemi, se Mancini ha vinto un allenatore una di caratura internazionale, ha vinto... scusatemi, allora facciamo un paragone. Simeone, dove ogni anno gli sfasciano la squadra, è un allenatore di levatura internazionale, vince. No, Vincenzo, e questi no, guardate, non mi date d'accordo. Allora, Simeone, ogni anno gli sfasciano la squadra, gli vendono i pezzi da 90 e lui da 10 anni a questa parte, Simeone è sulla cresta, non diciamo dell'Europa, ma poco. In Liga si fa rispettare, in campo europeo si fa rispettare. Mancini, che si è fatto costruire una squadra appositamente per lui col mercato di gennaio, con tutti i guai finanziari che all'Inter si trova, la matematica non è un'opinione, ripeto, si trova con risultati peggiori di quelli che aveva Mazzarri. E non esattamente come era l'Inter lasciata da Mazzarri, questo vuoi dire, Vincenzo? Però restiamo secondo me a Carrizo, Handanovic, al cambio Vidi, Cernanes, perché poi ad esempio Mancini ha dato anche alla squadra un gioco che ieri gli ha consentito di andare in casa della seconda della Bundesliga e uscire con sulle spalle una montagna di rimpianti, Io non so se sarebbe successo lo stesso con Mazzarri. Fausto da Lodi. Sì, eccoci. Buongiorno. Io invece difendo Mancini. Difendo Mancini per il semplice fatto che perlomeno sono a conoscenza che l'Inter purtroppo è quella che è, la rosa dell'Inter è quella che è, però perlomeno mi diverto. Quando vinciamo, quando perdiamo, quando pareggiamo, almeno non vado a vedere la partita con l'angoscia di vedere una serie di passaggi inconcludenti infinita, perché io questa è l'unica cosa che reputo Mazzarri, che ti faceva annoiare. Tu andavi a vedere la partita, almeno sto parlando per me, e era un'angoscia. Io mi ricordo lo 0-0 l'anno scorso in casa col Catania, che ha fatto un punto in trasferta, non abbiamo fatto un tiro in porta e il 90% delle partite erano così. Per quanto riguarda la rosa dell'Inter, già dall'anno di Stramaccioni, dove abbiamo preso una sessantina di gol, i difensori erano Juan Jesus e Ranocchia, e chi per loro, perché qua ogni partita qualcuno fa un errore che ci costa. C'è un problema di qualità nel reparto difensivo, io credo che che su questo non ci siano dubbi, detto che poi Juan Jesus è un uomo che ha mercato. Ranocchia fino a pochi mesi fa lo voleva Conte per la Juventus, quindi evidentemente giocatori così scarsi non sono, però nell'Inter non hanno trovato un loro compimento. Fausto, mi fate sentire Allegri, perché oggi è anche giornata di vigilia del campionato che torna domani ore 18 Palermo-Juventus, poco più di un allenamento? Di stanchezza non ne voglio assolutamente sentir parlare, di Dortmund non ne voglio sentire parlare, perché una squadra se non è in grado di giocare una partita ogni 5 giorni, ogni 4 giorni, vuol dire che o ci siamo allenati male o non hanno il motore per giocare una grande squadra. Poi domani, leggo dalle varie anticipazioni, dovrebbero giocare Coman e Matri in attacco. Domani Palermo-Juventus. È tornato Zeman, che debutta domani sulla panchina del Cagliari. No, io non ho chiesto nessuna garanzia. Ripeto, io sono venuto perché ci credo alla salvezza, perché penso che questa squadra ce la può fare. Il discorso è che poi la squadra non la salvo io, ma la devono salvare tutti. Poi c'è una penalizzazione di 2 punti ulteriore per il Parma per la questione degli stipendi non pagati. Spunta anche l'ipotesi di un reality che deve essere trasmesso su Sky, una striscia di 10 minuti tutti i giorni per raccontare come il Parma sta vivendo queste settimane complicate. Pare che non tutti nello spogliatoio siano d'accordo, per fortuna dico io. Poi saluto Leo Turrini. Ciao Leo. Ciao carissimo, vuoi le notizie sul traffico? No, aspetta, prima ti devo far sentire una cosa del procuratore di Verratti, perché voglio sapere cosa ne pensi. Stai dicendo che vale come Pogba, Marco? Sì, sto dicendo che vale come Pogba. Hai capito, abbiamo un italiano che vale come Pogba e non è la Ferrari. Beh, allora Verratti magari in futuro potrebbe anche trovare spazio, Maranello. Io devo dirti che come giocatore mi piace tantissimo. Tra l'altro c'è una cosa che nessuno ricorda, perché purtroppo l'epilogo fu disastroso, ma la partita quando eravamo a Natal, Uruguay-Italia, quella della fatale eliminazione, il primo tempo di Verratti fu straordinario. Sembrava di rivedere Rivera a 20 anni, poi si fece male, insomma, poi sapete cosa è successo, Suarez che mordeva Chiellini, la Rava, la Fava, eccetera. Ma come giocatore devo dire sicuramente il talento italiano più interessante degli ultimi 10 anni. Poi dopo, sì, poi continuiamo a chiederci come sia possibile che non abbia già la maglia titolare della nazionale, ma venga messo da Prandelli, da Conte. Tu, caro Giovanni, potresti anche chiederti come sia stato possibile che sia finito a giocare a Parigi, credo sì e no, per 12 milioni di 12 euro. 12 milioni. Che con quello che leggiamo le squadre del campionato italiano hanno speso per dei pipponi inauditi, quindi non ti sto parlando di Cristiano Ronaldo o di Messi o di Bale, uno qualche domanda anche sulla vedutezza della nostra classe dirigenziale se la dovrebbe porre. Mi dispiace che gente sia bloccato nel traffico della Pero Cormano. Sì, è lì con Chimi. È in coda, no, ma voi sapete che oggi c'era Renzi all'Expo, è per quello. Per colpa di Renzi ci siamo persi gente in diretta. Veramente questo Presidente del Consiglio dovrà rendere conto di moltissime cose a noi italiani. Sì, ma soprattutto di questa, soprattutto di questa. Le altre si può anche passare oltre. Ma caro Giovanni, sei bravo, voi due insomma siete Tolstoi e Dostoevskij insieme, però insomma arriva Renzi e gente è bloccata nelle code. Per una volta Raikkonen si sta muovendo, hai visto le prove libere in Australia? Sto dando un'occhiata, vedo Rosberg, Hamilton, poi Vettel e poi Kimi. È il santo bevitore. Beh, allora senti, è ancora molto presto, perché sono le libere del venerdì, c'è di mezzo la qualifica del sabato, poi l'intero Gran Premio. Però anche questo timido segnale sembrerebbe in linea con quello che ci siamo raccontati durante l'inverno. Io, tu, Carlo, è una Ferrari certamente non al livello delle frecce d'argento, ma che si sta avvicinando. Io lo dico sempre, se in questo 2015 la Ferrari riuscisse a salire spesso sul podio, beh, questo vorrebbe significare che è avviato un'inversione di tendenza. Poi fammi dire una cosa molto romantica, bellissima, ci tengo. È arrivato Maurizio, arriva bene, un messaggio, una mail che diceva: in casa facciamo tutto il tifo per voi, io, Michael e i nostri figli. Ed è firmato da Corinna Schumacher, che è una donna fantastica e non ha perso questa occasione per dimostrare tutto il suo valore. Credo che sia un gesto poetico meraviglioso. Speriamo davvero che un giorno Michael possa raccontarci la sua opinione sulla Ferrari che gareggia. È un sogno che abbiamo e mi faceva piacere dividerlo con voi. Poi il fatto che ci sia un tedesco che torna sulla rossa ha un impatto emotivo. Dal punto di vista romantico certamente questa cosa qui sta, diciamo così, riproponendo delle sensazioni che almeno per chi ha una certa età sono vecchie di quasi 20 anni, perché Schumi debuttò proprio in Australia sulla Ferrari nel 1996. Adesso siamo nel 2015, c'è Vettel che è un po' il suo clone, che da bambino dormiva col poster di Michael sulla rossa sopra il letto nella sua cameretta. Insomma, sono tutte cose, sai, io vedi, penso che la Formula 1 non morirà mai al di là dei casini immani che la contagiano, perché è un grandissimo romanzo popolare. Questa è la vera forza dell'automobilismo, dai tempi di Nuvolari, no? Insomma, c'è un qualche cosa che appartiene al DNA collettivo. E in più queste righe di Corinna Schumacher, ripeto, sono qualcosa di meraviglioso che mi faceva piacere condividere con chi ci ascolta. Michael e i nostri figli ti siamo per voi. A proposito dei grandi casini della Formula 1, ti leggo un tweet di poco fa di una collega che conosci certamente, Federica Balestrieri, che tanto si è occupata di Formula 1. Sì, sì. Che scrive: c'era acqua nel radiatore nell'abitacolo di Alonso, ecco cosa ha fatto da conduttore causando la scossa. Fonte Formula 1, più che attendibile. A proposito di grandi casini, allora senti, io credo che qui ci vorrebbe Hitchcock oppure Nero Wolf oppure un po' di sincerità. Io posso fare Archie Goodwin, il braccio destro di Nero Wolf. Ma senti, questa è una storia che si trascina da settimane. Io sinceramente, sulla base delle pochissime informazioni che sono state distribuite, all'ipotesi di un malfunzionamento tecnico che abbia attentato alla vita di Fernando, non ci credo. Ma non ci credo per una cosa, diciamo, molto pratica, che se fosse veramente successo qualcosa di tanto grave, è da escludere che pochi giorni dopo la McLaren di nuovo fosse in pista come c'era, no? E si sarebbero dovuti fermare. Allora, però anche la mia è una congettura. Noi le sole cose che sappiamo è che Fernando è stato molto male, è stato ricoverato per 3 giorni in ospedale, non è in Australia ed è la prima volta dopo 13 anni che un mondiale di Formula 1 inizia senza di lui. Non abbiamo la certezza che sarà in pista in Malesia. Io credo che uno dei guai, dei guasti della Formula 1, ma non da oggi, vediamoci, sia il deficit di trasparenza. Adesso c'è un'indagine della Federazione Internazionale su questo botto. Di cui ci fidiamo il giusto. Io anche in questo caso ho le mie riserve, perché anche la Federazione Internazionale è il tempio dell'opacità, però ritengo che, siccome stiamo parlando, ma lo dico non perché Alonso è un grande campione, un grande personaggio, stiamo parlando di un essere umano, no? Allora è indispensabile che la verità, qualunque essa sia, venga squadernata. Poi ti dico, se tu vai a vedere tutte le ipotesi che sono state formulate dopo l'incidente, la scossa, adesso l'acqua, il vento, i freni, da una parte qualcuno addirittura ha detto che c'è un impulso elettromagnetico che parte da una centralina della Honda che paralizza il cervello per 5 secondi e questo spiegherebbe lo svenimento. Insomma, voglio dire, è diventato un teatrino. È diventato un giallo. Ma sì, ti ho detto, ci vorrebbe Nero Wolf. Per me la cosa più importante, io lo dico dal primo momento, quando arrivarono quelle immagini che mostravano Alonso portato in barella poi in elicottero ospedale, è la preoccupazione per la salute dell'essere umano, e quindi ci debbono dire la verità per questo motivo. Noi aspettiamo fiduciosi, Leo, aspettiamo sì, fiduciosi. Io credo che di più, sai, io sinceramente darti una mia versione e dire certamente è stato quello perché me l'ha detto una talpa amica di Genta e di Parma, no, io non me la sento. Grazie Leo. Buon weekend a tutti, ciao. Leo Turrini, siamo alla vigilia del debutto della Formula 1, siamo anche alla vigilia questa sera. Una giornata particolare per la Milano del basket. Sono orgoglioso di avere questa serata, ma allo stesso tempo peccato che non possiamo mettere tutti i maglie di tutti i giocatori perché meritano insieme con me. Questo vuol dire Milano, è tutto per me, sai, squadra, mia vita, amici fuori campo, ci sono tutte cose che ho fatto qui a Milano, questo perché è sempre un grande pezzo del mio cuore. Tutti i miei successi sono iniziati qui, e allora non posso neanche mettere le parole. Io non so se voi l'avete riconosciuta questa voce, sicuramente l'ha riconosciuta Luca Cabiotti, che saluto. Ciao Luca. Ciao a tutti. L'hai riconosciuta, sì. Sì, l'ho riconosciuta. È anche la voce di Mike D'Antoni, i più giovani probabilmente non lo conoscono, ma se volessimo descriverlo in 30 secondi per raccontarlo a chi non ha vissuto quel basket lì. Beh, un grandissimo giocatore, una grandissima persona, un playmaker vero, un regista che è arrivato in Italia, è diventato un vincente grazie a un gruppo fantastico, a coach Dan Peterson che gli ha dato fiducia in mezzi che ancora non aveva espresso e che è entrato nella storia del basket italiano ed europeo perché era un giocatore fantastico, un vincente, un leader, difendeva, rubava palloni, dava passaggi meravigliosi e quando c'era da fare un tiro per vincere una partita lo faceva e quasi sempre lo segnava. Sì, ha vinto 5 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, una Coppa Corace, una Coppa Intercontinentale, 2 Coppa Italia in 13 stagioni con Milano, che questa sera ritira la sua maglia numero 8. A me di solito non piacciono queste manifestazioni, credo siano spesso cose di marketing più che di cuore. Questa però forse è un'eccezione, Luca. Sì, anche perché non è nella nostra tradizione fare queste cose e la gente magari è abbastanza fredda. Mi dicono che sono in tanti quelli che stasera, al di là di una partita importante, ma in una situazione ormai segnata in Eurolega per l'Armani, vogliono andare, vogliono vedere. Il peccato è che molti saranno ragazzini e gli racconteranno tante belle storie, ma non potranno mai vivere quello che un giocatore come Mike ha saputo dare a Milano, al basket italiano. Quindi credo che sia molto sincera questa come operazione e mi auguro che venga bene, perché oltre a meritarselo è bello poter poter ricordare insieme certi momenti così belli. Ho letto la tua intervista oggi a Mike D'Antoni sulla Gazzetta dello Sport, due passaggi su tanti sono anche quelli che evidenziate: uno, il fatto che comunque quello era un grandissimo gruppo, un gruppo di amici oltre che di grandissimi giocatori, l'altro Mike D'Antoni che dice: per carità, non riguardate le immagini delle mie partite perché eravamo di una lentezza esasperante. Sì, questa è una cosa che vede ad esempio Dan Peterson sul fronte opposto, che sostiene che in realtà non è solo la velocità pura, ma la rapidità dell'azione della pallacanestro, e Mike era molto rapido in tutto quel di piedi, di mani, quindi forse non sviluppava uno scatto alla Bolt, ma sicuramente era un giocatore moderno. Però è vero, fa un po' impressione. Sono cambiati le tipologie dei giocatori, adesso hanno dei fisici pazzeschi, corrono, saltano molto di più, e fa specie vedere un giocatore che raramente andava in uno contro uno, però siamo sempre lì, bisogna avere pazienza, guardare le immagini per qualche minuto e poi si colgono delle sfumature di un campione assoluto che molti allenatori, se adesso avessero in campo, farebbero giocare anche avendolo oggi, anche con quel suo fisico da ragioniere della porta accanto. Grazie Luca. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Luca Chiabotti. Questa sera il ritiro della 8 di Mike D'Antoni prima di Milano-Malaga, che in realtà conserva ancora una piccola speranza per Milano di arrivare alla top 8 di Eurolega. Abbiamo finito qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci sentiamo domenica dopo il GR delle 17. Ciao! Ma che cosa penso io, Nando, che dico sempre le stesse cose? Credo di essere venuto anche abbastanza a noia.